Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi e con Carlo Gabardini. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. You see the go-getter, she's everybody's side. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold. I got faith in your baby. I got faith in you now. And you've been such a good friend to me. Oh, God, I love you so high. I'll pay you. Hallelujah. I got faith. Manovra snella, Gentiloni frena l'assedio dei partiti. Tari, il governo interviene, Corriere della Sera. PD Bersani, l'ultima trattativa, così Renzi apre alla sinistra. Allo studio accordo tecnico con MDP, La Repubblica. E invece La Stampa apre con Renzi, Banca Etruria, alibi per azzerare ogni critica, lettera dell'ex premier, chiarire il ruolo della vigilanza sulle banche venete. E Il Fatto Quotidiano invece su Ostia, tanta gente, le manifestazioni, tanta gente con Movimento 5 Stelle e sinistre, no fascio mafiosi. E invece Il Giornale, truffati sulla Tari, abbiamo pagato il doppio, furto per errore, il governo ammette i comuni hanno usato aliquote troppo alte. E ora, si domanda Il Giornale, e ora staremo a vedere... E ora risponde Libero, che invece parla d'altro. Crescono i poveri a Roma, più immigrati a Milano. Da capitali politiche ed economiche, le due città sono diventate rispettivamente capitale degli indigenti e dei profughi. Una visione un po' miope. Buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. Comunque volevo tranquillizzarti, visto che hai letto il titolo di Repubblica, PD Bersani, l'ultima trattativa, Renzi apre la sinistra. C'è anche un'intervista di Pisapia dove chiude subito la sinistra a pagina 2. Cioè, a pagina 1 aprono, a pagina 2 alle pagine dispari aprono, alla sinistra alle pagine pari richiudono. È proprio questo, perché sul Corriere Pisapia viene intervistato perché oggi presenta l'ennesima manifestazione pisapiana, che si chiama Diversa questa volta. Che è il nome? È il nuovo nome. Dopo mi pare fosse Insieme, poi Campo Progressista, adesso siamo a Diversa. PD-versa. PD-versa. Però chi c'è in questa grande? C'è gente diversa. Chi c'è? Allora vediamo. Spero, Grasso Spero, dice Pisapia. Cuperlo, Damiano, Speranza, appunto, sono stati invitati. E anche qui spera che ci saranno. Invece chi c'è veramente con Pisapia lo scopriamo oggi sul Corriere, perché a dire la verità non si era capito. C'è il segretario dei radicali, la presidente di Lega Ambiente e la presidente della Camera, Laura Boldrini. Queste sono le notizie, insomma, oggi sul fronte sinistra. È che la stavi leggendo come fosse una formazione, pensavo che fosse anche la formazione di chi scenderà in campo contro la Svezia domani. Di quello parla la Gazzetta Sportiva. Italia cambia così. Ci sono anche i consigli dei senatori Azzurri a Ventura, ovvero Antonioni, Baresi, Bergomi, Causio, Pirlo, Serena, Tardelli, Zoff, in rigoroso ordine alfabetico. Vorrei sapere cosa dice Zoff. Zoff dice: bisogna tornare squadra e restare calmi. Cosa vuol dire? Tornare squadra. Ad essere insieme, a combattere. Consiglio tutti. Un po' metafisico questo. Sì, di ma Zoff. Questa è la prima pagina, poi all'interno saranno ancora più asciutti. Però vediamo. Tardelli dice che Insigne non può star fuori. L'hanno pensato in tanti vedendo l'ultima partita, dove Insigne appunto era fuori e tutti volevano che fosse dentro. Causio, un altro grande senatore, dice: Jorginho, se lo convochi devi farlo giocare. Cioè, e Antonioni invece, scusami, dice: avremo un giocatore in più, San Siro. E immagino che lui si stia riferendo allo stadio, ma noi in realtà chiediamo anche al Santo di dare una mano, già che ci siamo, giusto? Esatto. 800 24 00 24, cerchiamo un personaggio della settimana. Come questa, tutte le domeniche. Come tutte le domeniche. Ricordiamo che questa non è una rassegna stampa, stiamo leggendo i titoli dei giornali, tra poco cercheremo buone notizie. Certo. Come facciamo ogni sabato e domenica mattina alla rassegna stampa. E come è sempre più difficile. Giulia Crivelli, che salutiamo e ringraziamo, però noi cerchiamo anche un personaggio della settimana che ha una notizia che riguarda questo personaggio negli ultimi 7 giorni. Il primo indizio che vi vado a dare, se volete aggiudicarvi i biglietti della mostra Egitto al MUDEC di Milano, è che il nostro personaggio ha raggiunto un obiettivo. Qua è un, diciamo, un target ampio. È giusto, come... è il primo indizio. La domenica è lunga, però, siamo insieme fino alle 10, avete un sacco di tempo per pensarci. Pensate. E telefonare. Pensate. Parleremo di gruppi di controllo del vicinato, che sembra che funzionino, perché laddove si attivano le social street e i gruppi su WhatsApp di vicini che si passano informazioni su quello che accade, soprattutto nei quartieri periferici o nelle campagne dove magari l'auto della polizia passa meno di frequente e c'è qualche preoccupazione in più per possibili furti in case e gente sospetta che si aggira, i reati diminuiscono. Una storia in Veneto. A proposito di questi gruppi, se posso riportarti sulla rassegna, in realtà su Repubblica c'è una doppia pagina su il boom social street. Non sono la stessa cosa, ovviamente, però sono un fenomeno di cui ci siamo occupati spesso. Milano è in prima linea su la nascita di nuove social street continuamente. Io stesso sono iscritto alla social street di casa mia e così ho trovato i miei gatti e ognuno ha storia di risoluzioni. Quindi in realtà social street utili non solo al controllo del territorio ma anche alla socializzazione. Esatto. C'è anche la buona notizia è che San Gottardo Virtuale, paese di 7.400 persone, dove si adotta il vicino, appunto, persone indigenti che vengono aiutate dagli altri partecipanti della social street. Insomma, se fate parte di un gruppo di controllo del vicinato o anche più semplicemente di una social street, chiamateci 800 24 00 24. Oggi vi vogliamo così, ascoltatori controllori dei fatti, esatto. Il nostro fact checking lo facciamo in questa maniera qua, oppure se addirittura avete sventato un crimine con una chat su WhatsApp. Esatto, sì. Beh, questo è bellissimo. Allora, stiamo cercando tutti gli italiani che hanno sventato un crimine con una chat di WhatsApp. Perché succede? Lo so bene. È bello l'ingaggio. 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Conti, le società, lo yacht, gli italiani di Paradise Papers, il caso Vitrociset, penso che si pronunci così, che gestisce le reti di polizia e difesa, questo sul Corriere della Sera, perché ci sono anche queste notizie. E qua non sono buone notizie per quelli che vengono citati in questa lista che ha diffuso il Süddeutsche Zeitung, poi messa a disposizione di un gruppo internazionale di giornalisti che fanno ricerca, inchiesta su queste tematiche, e insomma c'è dentro un po' di tutto. Il Corriere ci ricorda da George Soros a Tim Cook, quello di Apple, ma c'è anche la regina d'Inghilterra, Madonna, Bono degli U2, e un sacco di gente. Cosa sappiamo di tutto questo? Poco, sappiamo che sono nomi che sono inseriti, come per esempio c'è anche lo yacht di Silvio Berlusconi e una sede diplomatica della Finlandian dentro la lista Appleby. Sto sbagliando tutte le pronunce, non so come si pronunciano, ma non importa, avete capito? Ma... stiamo parlando di, ti ricordi, Paradise? Certo. Paradise. Stiamo vorrei sbagliare così. Delle altre pronunce. Sì, Invece volevo parlare di questa che non è una buona notizia, ma mi sembra una buona pratica più per il giornale sul Corriere della Sera. Una lettera di Carlotta Mattiello che parla di suo figlio Vittorio. Ha scritto una lettera all'omertà su mio figlio. Un anno dopo la madre del giovane artista Cranio Randagio si chiede di chi era la droga, poteva essere salvato. È una lettera appello e mi sembra sottolineare la questione. Allora, io invece ho dimenticato i verbi, comunque volevo dirti. Non importa, bastano i sostantivi. Abbiamo buone notizie sempre sulle prime pagine dei giornali. In questo caso il Messaggero parla della manovra, la manovra, come sta cambiando la manovra economica, e come spesso accade le buone notizie arrivano leopardianamente dopo aver temuto il peggio, si torna a sperare nel meglio. Il super ticket verso l'abolizione, scrive il Messaggero. La legge di stabilità, il governo apre all'eliminazione del balzello per le visite specialistiche. Questa dovrebbe essere una buona notizia, perché come ricorda il Messaggero, sempre più persone non si curano come dovrebbero per motivi economici, e quindi insomma, però da dove prenderanno i soldi che mancano? Quindi all'appello per tutte le altre iniziative che ci sono nella manovra, 600 milioni di euro dovrebbero arrivare dalla tassa sul fumo. Eccola lì. Siamo sempre lì. Io oggi festeggio un anno che non fumo, quindi praticamente non lo so, tecnicamente sono un evasore a questo punto. Forse sì. Allora, beh, poi oggi è domenica e noi però non dimentichiamo mai il nostro appuntamento con la scuola buona del maestro Alex Collazzoli. Certo. Ci prendiamo un minuto così in mezzo alla rassegna stampa per andare a vedere questa volta quale caso, quale storia di scuola, perché noi parliamo adulti spesso tanto di scuola, ma quanti anni è che non andiamo a scuola? Tanti, troppi. Non sappiamo più esattamente che cosa accade là dentro, quindi forse una rinfrescatina ogni tanto ci può anche tornare. Non sappiamo più nemmeno quello che accade dentro i libri, in realtà, esatto. Molto spesso quello è peggio. E comunque Collazzoli ci porta alla ricerca di casi di buona scuola, anche casi particolari come questo, la scuola nel bosco sarà. Sentite. Ciao Alessio, ciao Carlo. La scuola buona di questa settimana si chiama Piccola Polis. E per incontrarla bisogna andare fino a Ostia, bisogna andare in un bosco a Ostia. Lì sì, c'è un insegnante, Paolo Mai, ma la vera maestra è la natura. Non ci sono voti, non ci sono pagelle, non ci sono compiti, e si impara a leggere e a scrivere, pensate un po', attraverso l'esperienza, andando nell'orto, andando a mettere le mani tra gli animali, facendo delle gite sul territorio, con un laboratorio scientifico, una scuola che è stata voluta da un gruppo di genitori, ma che è una scuola che va a colmare il gap tra la natura e il bambino. Una scuola che si può fare anche nelle nostre aule pubbliche, a partire proprio dall'incontro con la natura. È questo, hai sentito? Sì, sono molto contento che questa idea di scuola buona venga da Ostia. Da Ostia, esatto. E poi però adesso c'è anche a Varese, c'è anche in provincia di Varese, e, insomma, la scuola nel bosco. Pensa che c'è anche una sindrome, la sindrome di mancanza da contatto con la natura, che alcuni medici stanno studiando a proposito dei bambini contemporanei di adesso. E quindi, insomma, magari non tutta la scuola nel bosco, però un po' qualche di scuola aula, tu dici, almeno qualche aula. Esatto. Abbiamo qualche aula in legno. Poi abbiamo anche una notizia per cui vale la pena arrabbiarsi. Questa volta però ci dobbiamo incavolare con noi stessi, eh? Questa è la marcia. Ah sì. E che questa volta dall'ospedale di Terni ci arriva la notizia che ancora una volta manca il sangue, ci sono pochi donatori, a Terni hanno un problema con il sangue, e allora è stato rilanciato questo appello ad andare a donare il sangue, e c'è proprio da incavolarsi con noi stessi, perché è una cosa che oltretutto fa bene a chi lo fa e soprattutto a chi lo riceve. Allora, pensa che il direttore dell'azienda ospedaliera di Terni ha riservato ai donatori di sangue 4 posti auto sempre liberi di fronte all'ingresso dell'ospedale, sperando di incentivare. Beh, però questa è una buona notizia, sì, in realtà sì, è una buona pratica per risolvere una cattiva notizia, ovvero l'assenza di sangue, ma con in maniera creativa e attirando quelli più pieni di sangue, che così possono parcheggiare la macchina gratuitamente. Allora, sempre dagli spunti che derivano dalla manovra economica, c'è un'altra possibile buona notizia, che è quella che riguarda la web tax. La web tax, perché se tra i possibili papabili evasori dei Paradise Papers, cioè Tim Cook della Apple, sappiamo che quello del far pagare le tasse ai giganti del web è una questione spinosa e importante. Allora, guarda, si stima che possa arrivare fino a 1 miliardo da questo provvedimento in manovra, una tassa, scrive Repubblica intervistando un senatore Mucchetti, una tassa del 6% sul fatturato, l'obbligo per banche e carte di credito di segnalare tutte le transazioni avvenute all'Agenzia delle Entrate. Guarda, a questo proposito avevo una notizia che mi stavo chiedendo se fosse una notizia buona o meno, però si lega molto bene a questo e al fatto forse alla necessità della web tax, ovvero viene dalla Cina, record di Alibaba nel giorno dei single, che per i cinesi è l'11 novembre, perché l'1 è il simbolo della solitudine, quindi 11 11, Il sito Alibaba ha venduto per 25 miliardi di dollari in un giorno. Quindi quando parliamo spesso di crisi, parliamo spesso di commercio che non funziona, in realtà moltissimo del commercio è semplicemente su internet e noi italiani spesso siamo un po' ancora alla rincorsa. Poi ti voglio segnalare anche dal Messaggero una piccola buona notizia che arriva da Amatrice, dove c'è stato un contest praticamente tra street artist, che romani per nascita o adozione, che hanno affidato all'intervento pittorico eseguito su un muro lungo via del Castagneto nell'ambito dell'iniziativa Street Art per Amatrice, ideata da uno di questi artisti. Quindi ci sono, che so, una fenice a ricordare la rinascita dalle ceneri, opera appunto di Mauro Sgarbi, oppure Camilla, la cagnolina morta dopo aver aiutato a rintracciare molti dispersi, che è stata disegnata da Moby Dick, e quindi un motivo in più per andare ad Amatrice, no? A farsi un giro, certo. E quindi a tenere viva l'attenzione su Amatrice. Ma siccome noi siamo Si Può Fare e cerchiamo buone notizie, è arrivato il momento di raccontarvi le 5 migliori buone notizie della settimana. La Si Può Fare. Alright, give me five. Allora, cominciamo con una notizia che ci apre così a un contesto internazionale, perché una ricerca dell'Università inglese britannica di Nottingham, pubblicata dalla rivista Energy and Environmental Science, come sempre sbaglio la pronuncia in inglese, perdonatemi, riguarda i mozziconi di sigaretta, nuova vita ai mozziconi di sigaretta nell'impiego incredibile di diventare materiale per lo stoccaggio dell'idrogeno, e quindi di fatto potrebbero diventare, che è una questione importante, no? Non si sa mai come stoccare l'idrogeno, per esempio per le auto all'idrogeno, e potrebbe diventare serbatoi per l'idrogeno di domani. Non c'è niente da fare, devo ricominciare a fumare, mi sembra di capire. Al quarto posto invece il comune di Medesano ha presentato il calendario della stagione teatrale invernale 2017. Ma che cosa c'è di strano in questo? Dov'è la buona notizia? La novità più grande è rappresentata dalla possibilità di entrare gratuitamente a teatro per chi è disoccupato. Così dice l'assessore alla cultura Deborah Corsaro, per poter usufruire di questo bonus bisogna presentarsi in biblioteca e mostrare il documento che attesta la registrazione alle liste di collocamento. Ci sembra un'ottima idea. Terzo posto, siamo sul podio. Una notizia che riguarda la Sicilia, fresca di elezioni. Allora, pensate alla storia incredibile. A Messina, l'azienda dei trasporti è stata commissariata per 10 anni. Ci hanno messo 10 anni a risanarla, e questa non è la buona notizia. La buona notizia è che il commissariamento è finito a Messina, quindi l'azienda dei trasporti è stata appunto risanata, tutto adesso funziona o dovrebbe funzionare, e quindi diciamo fine del commissariamento, della gestione straordinaria, si torna all'ordinario. Sono venuti 10 anni, però a Messina. Però è una buona notizia dopo 10 anni. Sì. Al secondo posto invece la notizia che ci sembra sempre o di aver già dato o di averla già accennata, però in realtà non è così. Questa è finalmente arrivata a termine. Tutto parte da una consultazione online di Coldiretti che chiedeva se l'etichetta d'origine per i derivati del pomodoro fosse necessaria. L'82% ha risposto sì, e adesso c'è il decreto. Si applica ai derivati come conserve, concentrato di pomodoro o anche a sughi e salse che siano composti almeno per il 50% da derivati del pomodoro. Sull'etichetta ci dovrà essere obbligatoriamente indicata il nome del paese di coltivazione del pomodoro e il nome del paese di trasformazione del pomodoro. Così, per trasparenza. Poi uno può mangiarsi anche il pomodoro australiano, però è importante che tu lo sappia. Può mangiarsi pure l'etichetta. Primo posto, è una notizia che riguarda la scuola di cui abbiamo parlato poco fa con Corlazzoli. Il pronto soccorso, il primo soccorso anzi, arriva a scuola. Ebbene sì, da come si riconosce un oggetto pericoloso in casa al far sapere, al saper fare un massaggio cardiaco, ma anche altre cose, nelle classi italiane dall'asilo fino all'ultimo anno di scuola superiore il primo soccorso diventerà dal prossimo anno scolastico un vero e proprio corso con gli operatori del 118 a spiegare anche tecniche varie, no? che servono in casi di emergenza. Insomma, una scuola sempre più utile è importante. Questa volta è il pronto soccorso, il primo soccorso che diventa materia di insegnamento a scuola. Questa era la prima notizia del Si Può Fare della settimana. Evviva! All right, give me five. All right. Ciao Alessio, ciao Carlo. Sono Massimo, sono sempre nel futuro, è il 2037, sono circa 20 anni da voi. Oggi una domenica bellissima per me. Sto andando a vedere l'ultima gara del MotoGP, si decide tutto all'ultimo momento. La cosa incredibile è che in lizza per diventare campione del mondo sono una moto che si guida da sola e un grandissimo pilota di cui non faccio il nome perché in quegli anni sta per emergere, non voglio farvi lo spoiler. Incredibile, per la prima volta una macchina può superare un'intelligenza artificiale, un robot, una moto che si guida da sola può superare un uomo. La seconda bellissima notizia dal futuro è che domani vado a vedere gli spareggi per Spagna 2038, l'Italia e la Svezia si sfidano. La cosa incredibile è che la Svezia è fortissima grazie a due robot che giocano in difesa. L'Italia ha un attaccante robotico ma che è infortunato, ha un problema di software che lo tiene fuori dai campi da ormai troppo tempo. La cosa bellissima per entrambe le situazioni è che gli uomini hanno superato se stessi, le performance di calciatori e di motociclisti sono incredibili da quando sono arrivati i robot. Questa ci fa ben sperare per la specie umana, miglioramento ogni giorno, performance sempre più alte e divertimento alle stelle. Vado a vedermi lo start di questo bellissimo MotoGP e domani la partita. Ciao, a presto. Vabbè, hai capito Temporelli, pensa a incontrarti con un terzino robot della Svezia in un tackle scivolato, che male che ti fa, però vedete, avranno trovato un modo per ovviare a questo aspetto. Speriamo di avere un paio di giocatori robot all'altezza domani per battere la Svezia e riuscire a raggiungere i mondiali, che sarebbe veramente terribile non andarci. Però vedi che la notizia di Temporelli parte da una cosa che io non sapevo, e la Yamaha sta sperimentando veramente il pilota robot perché si parla sempre delle auto senza pilota, delle auto automatiche che vanno da sole, ma in realtà esistono anche le moto. La Yamaha appunto si chiama Motobot, la sua moto senza pilota, o meglio con un pilota robot, e vorrebbe battere Valentino Rossi. Per adesso hanno già fatto un giro di prova, ma ha vinto Valentino Rossi con 30 secondi di vantaggio. Però fra poco si sfideranno su una gara completa e si teme che vincerà il robot. A noi ci basta che in carne e ossa Andrea Dovizioso riesca nell'impresa oggi pomeriggio. C'è il Gran Premio a Valencia, l'ultima chance. Stavi dicendo che Dovizioso magari è un robot? Provaci Dovi, magari, dice la Gazzetta dello Sport oggi in prima pagina. Marquez pole è caduta, Dovizioso nono, ma ci crede. E allora, 800 24 00 24, andiamo in pausa. Vi ricordo che cerchiamo un personaggio della settimana che ha raggiunto un obiettivo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, il primo si può fare di oggi, domenica mattina, è una piccola storia che viene dal comune di Campolongo, in provincia di Venezia, dove da quando sono operativi, per così dire, i gruppi di controllo del vicinato, si segnalano diminuzioni dei furti anche del 20% in quelle zone. E allora noi ce ne felicitiamo e abbiamo con noi l'assessore alla sicurezza del comune di Campolongo, Luca Callegaro. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Allora, grazie. E a voi per questi risultati. Allora, l'immagine che caratterizza, no? Il logo, se vogliamo dire così, ritrae una persona in divisa, una forza dell'ordine, un poliziotto, che abbraccia da un lato una donna con un bambino in braccio, dall'altro una figura maschile, e due bambini che si tengono per mano a loro volta. Quindi l'idea, diciamo, di un legame tra le forze dell'ordine, che normalmente si occupano di sicurezza, e i normali cittadini. Questo è il controllo di vicinato, per come lo stiamo conoscendo, una rete di associazioni che soprattutto nel nord Italia sta prendendo piede. Ci racconta esattamente che cos'è un gruppo di controllo del vicinato lì da voi? Allora, da noi il gruppo di controllo vicinato è un'associazione a livello nazionale che praticamente ha scritto un vademecum dove viene spiegato come fare per aumentare la percezione della sicurezza. Mm-hmm. Praticamente il nostro comune ha adottato questa, ha contattato questa associazione, abbiamo fatto un po' di propaganda nei social network e famiglia per famiglia tramite dei moduli dove le persone possono iscriversi, e abbiamo preso abbiamo chiesto a delle persone di riferimento di fare da coordinatori per delle vie, perché o vie o quartiere. Sì. E da di lì c'è, appunto, è nato questo progetto che ogni giorno vede nuovi iscritti, perché siamo arrivati a 170 famiglie. Volevo chiedere proprio questo, 170 famiglie. Ma quindi sono è un'associazione che è nata di per sé, da sola, e poi dopo voi l'avete contattata? Esatto, è nata nel Veneziano, qui in zona Maerne, Martellago, e dopodiché hanno sviluppato appunto questo progetto qua e noi l'abbiamo contattata. Vi siete fatti promotori in questo caso per portare anche sul vostro territorio questo tipo di associazioni. Che cosa fanno in concreto i cittadini iscritti a questa associazione? Che tipo di controllo del vicinato viene effettuato? Intanto bisogna dire che noi l'abbiamo suddiviso, oltre sì, che per vie anche per frazioni. Il nostro comune ha 4 frazioni, che sono Santa Maria Assunta, Lietoli, Campolongo e Boion. E le abbiamo fatto 4 grandi gruppi WhatsApp. Mm-hmm. Dove ci sono appunto dei coordinatori che comunque regolarizzano i messaggi, perché ovviamente essendo tante persone all'interno di questo gruppo ci vuole anche un po' di buon senso. Cioè, quindi mi spieghi, se sono 170 famiglie, sono 4 gruppi, mediamente in ogni gruppo ci sono una quarantina di iscritti, così più o meno? No, diciamo che la frazione che ricopre sì, di più, perché siamo partiti a marzo con sì, il progetto, la frazione che ricopre di più è quella di Lietoli, dove ci sono attorno a 90 di iscritti. Ah, ben 90 iscritti in un'unica chat. No, di più, perché allora ci sono 170 famiglie, ma magari sì, la famiglia inserisce all'interno, giusto, la moglie, più membri marito, della stessa eccetera, famiglia. Mm. Perciò siamo arrivati a gruppi che... Io già impazzisco con la chat della classe prima D di mia figlia Viola a scuola, immaginiamoci la chat del gruppo di vicinato con un centinaio di persone. Invece no. Perché abbiamo regolarizzato i messaggi e tra virgolette abbiamo fatto un vademecum di rispetto, perché sì, sono tanti. Ma il vademecum è il vostro o è quello dell'associazione? Per questo prima le chiedevo se no, già l'abbiamo scritto noi, perché l'associazione ha fatto un vademecum più generico. Noi abbiamo fatto proprio per il paese, cioè presentiamo anche qualche evento, magari qualche visita gratuita che viene fatta all'interno del territorio per merito di altre associazioni eccetera. Scriviamo anche questo. Ma cosa entra in questa chat in base anche al vademecum? Cioè, cosa posso segnalare io nella chat? Allora, un'auto parcheggiata sospetta? Sì, può segnalare la perdita di un animale, lo smarrimento di un animale. Mm? Può segnalare eventi che si tengono nel paese, nelle frazioni del paese. Abbandono di rifiuti, che è più frequente, sì, ultimamente è frequentissimo. Può segnalare dei movimenti sospetti delle persone sospette, oppure anche dei falsi tecnici, per esempio più di qualche volta abbiamo individuato dei falsi tecnici, oppure quelle persone... La classica tecnica per rapinare, certo, nelle case degli anziani. Mi scusi, ma quali di queste denunce in realtà non andrebbero fatte direttamente dalle forze dell'ordine? Cioè lo smarrimento di un animale, ritrovare dei rifiuti a un angolo di una strada, in teoria bisognerebbe andare dalle forze dell'ordine, o sbaglio? Allora, lo smarrimento di un animale ovviamente... Sì. Le forze d'ordine sono sempre meno, perché i comuni hanno sempre meno disponibilità economica. Certo. E oltretutto, se succede su orari dove le forze d'ordine non sono presenti, per esempio dopo le 6 di sera, conviene la social street, perché effettivamente è più facile, esatto, che un vicino abbia visto. Molto giusto. No, è che mi chiedevo, intanto mi chiedevo anche come mai si dice che sono 170 famiglie iscritte, perché è interessante anche questo meccanismo. Quindi in realtà ci si iscrive come famiglia, cioè se il capofamiglia fa parte del gruppo, allora anche i figli diventano controllori della zona? Eh sì, perché magari il padre di famiglia è a lavoro e la moglie magari è a casa, o il figlio è a casa, comunque anche lui è parte fondamentale di questo progetto. Ah, quindi come sempre si iscrive il marito, ma il lavoro lo fa la moglie? Sì, può potrebbe essere così, per esempio mia amorosa che adesso aspetta un bambino, sì, è a casa durante il giorno e si che fa prima le segnalazioni e di sta me che appostata lì alla finestra. Però in ma effetti... è una donna incinta, sta dicendo che è una donna incinta che si occupa della sicurezza del quartiere. No, però anche lei ha gli occhi per vedere, perciò giustissimo, ecco, stavo scherzando. Veniamo alla parte più gustosa di tutta la faccenda. Voi avete in qualche modo provato a stilare una statistica, no? Anche dei furti che avvenivano in questi quartieri, che adesso avvengono in quantità minore, è così? Allora, noi abbiamo aumentato la percezione della sicurezza per quanto riguarda... Ma il solo la percezione? Abbiamo rilevato più segnalazioni da parte di cittadini che prima comunque non avvenivano. Adesso il numero del 20% che ha scritto il giornalista non lo so confermare. Certo. Però abbiamo notato che la percezione è aumentata, sì, e anche comunque i casi di segnalazione, perché prima quando uno subisce un furto, un tentativo di furto, non sempre, se non va a buon fine il tentativo di furto, nel senso che non entrano i ladri in casa, a buon fine per i ladri intendo, segnalavano alle forze dell'ordine. Invece adesso con questo gruppo qua viene segnalato tutto quanto, perciò comunque la percezione della sicurezza e il controllo sul territorio è aumentato senza ombra di dubbio. Anche perché, certo, poi al termine di queste chat da qualche parte ci scatta poi anche l'intervento di una forza dell'ordine, no? Nel caso, che è il coordinatore. Esatto, essendo io l'assessore della sicurezza, essendo dentro, sì, di queste chat, sì, comunque segnalo sempre sia ai carabinieri alla polizia locale tutto quello che viene a lei è dentro a tutte le chat, ma, quindi la cosa bella e comoda è che lei sia dentro nelle chat, perché effettivamente c'è l'assessore. Se c'è l'assessore, uno dice assessore, si sente più tranquillo. Mandiamo una volante. Sì. Va bene, caro assessore. Volevo fare una domanda, sì, brevissima, ma nel comune di fianco sono aumentati i furti? Perché non vorrei che i ladri semplicemente si spostassero dove non ci sono i gruppi di controllo in azione. Il posso turismo... dire che l'altro giorno leggevo il giornale, sì, proprio ieri, e ho visto che ci sono parecchi furti qui nei comuni a fianco. Comunque anche loro si stanno adottando di questo servizio qua, di questa associazione. Perfetto, perché questo volevamo. Presto dovranno emigrare oltre frontiera. Grazie assessore Callegaro. E noi agli ascoltatori chiediamo all'800 24 00 24 se voi fate parte di una social street o di un gruppo di controllo del vicinato, di chiamarci. Se siete riusciti per esempio a sventare un crimine con una chat su WhatsApp. Questa è la vostra mattina, perché oggi noi il fact checking lo facciamo così. Ascoltatori, controllori dei fatti, 800 24 00 24. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter. She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big gold side. I got faith. Abbiamo Ennio che chiama da Roma. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Prego, su cosa volevi intervenire, Ennio? Volevo dire il personaggio per me. Sì, chi è? Il maratoneta malato terminale che ha percorso la maratona di New York. Sì, qualche elemento in più, è un italiano. Elemento in più è italiano, sì. E praticamente è il primo ad aver percorso la maratona per ben due volte con la sua malattia, avendo avuto un tumore alle spalle che sta cercando di guarire. Ennio, questa è una storia incredibile, in effetti è un grandissimo personaggio questo, ma non era in effetti lui, però. Ma siamo molto contenti di aver ricordato la sua storia, la sua impresa. Grazie. Per averci portato anche questa notizia nel programma. Un altro il personaggio che ha raggiunto un obiettivo che andiamo cercando. Adesso un aggiornamento che riguarda sempre Venezia, perché c'è una notizia di questa settimana che vi vogliamo dare, e credo che sia una buona notizia perché riguarda la questione delle grandi navi. Tutto è nato con il decreto, ricordate, Passera Clini, che prevedeva un limite, certo, di 40.000 tonnellate per le auto, per le auto 2012, per le navi che devono transitare nella laguna, ma tutto era rimasto sospeso in attesa di trovare il percorso alternativo. Adesso pare che si sia trovato Marghera, e noi ne parliamo con Marco Gasparinetti, portavoce del gruppo 25 Aprile, che è una piattaforma civica per Venezia. Buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie. Buongiorno. Ben ritrovato, Marco. E siete soddisfatti di questa notizia? Siamo in attesa di capire se è una buona notizia. Diciamo che nello spirito della trasmissione questo atto di orientamento del comitatone dimostra che si può fare. Anche noi è la stessa curiosità che abbiamo noi. Siccome siamo a caccia di buone notizie, abbiamo detto: andiamo a chiedere direttamente a loro se secondo loro è una buona notizia o meno. Cosa temete? Dove potrebbe essere l'insidia? Credo un'ipotesi potrebbe essere che, come è caduto già in passato, questo percorso alternativo non sia, come dire, che si caschi dalla padella nella brace, no? Cioè che non si vada migliorando, ma addirittura peggiorando. Purtroppo suggerisce prudenza, perché volendo riassumere gli eventi di questi 5 anni, a partire dal disastro della Costa Concordia, 13 gennaio 2012, perché il decreto Passera Clini è figlio di quel disastro, Schettino che si schianta sulle rocce, il timore che qualcosa di simile possa succedere anche a Venezia, anche se non ci sono rocce, ci sono le nostre case, i nostri palazzi, i nostri monumenti, c'è una roccia chiamata Palazzo Ducale, se vogliamo ironizzare. Quindi il timore sull'onda del disastro della Costa Concordia era questo. Il problema è che dal 2 marzo 2012 sono passati più di 5 anni, e questa è un po' come la tela di Penelope. Tela di Penelope perché il decreto Passera Clini è assolutamente chiaro. All'articolo 2 dispone il divieto di transito per le navi di stazza superiore alle 40.000 tonnellate. 5 anni dopo queste navi ancora continuano a passare. Ecco, ma perché non c'è un passaggio alternativo, si dice, perfetto, giusto? No, lo dice anche il decreto Passera Clini. Il divieto, certo, purtroppo era subordinato all'individuazione di una rotta alternativa, e in questo bisogna dare atto. Che adesso è stata trovata. Come valutate questo percorso alternativo che fa rotta su Marghera? Senza guerra di religione, vogliamo fare una valutazione molto laica. I parametri di valutazione per me sono 4. Primo, i nostri polmoni, perché le emissioni di questi navi sono anche un problema di salute. Si parla tanto di PM10, non solo a Venezia. Il paradosso è una città pedonale dove non abbiamo automobili, che abbiamo comunque dei livelli di inquinamento paragonabili a quelli di Milano. 2, le nostre case, i monumenti, le chiese, che vanno protetti, e in questo senso sicuramente l'atto di orientamento è un passo nella direzione giusta, perché toglie le navi dal bacino San Marco e dal canale delle Giudecche. Ok, gli ultimi due punti, perché abbiamo 30 secondi, gli ultimi due punti. Assolutamente, la nostra laguna, questo è il problema, perché se le navi continuano a entrare in laguna, e questo dovesse richiedere lo scavo di canali a ridosso di Porto Marghera, dove sappiamo tutti cosa è stato fatto negli ultimi 100 anni, abbiamo appena festeggiato il primo centenario di Porto Marghera, non sono proprio i fanghi delle terme di Abano quelli che si trovano in quel canale, chiamato non a caso canale dei petroli e non canale legge sul link, tanto per capirci. 4, i posti di lavoro. È chiaro che nei parametri di valutazione, in maniera molto laica e senza guerra di religione, dobbiamo occuparci anche di questi. Però per parlare di posti di lavoro bisogna innanzitutto smontare. Da 0 a 10 un voto, che devo chiudere, da 0 a 10 un voto? Voto un 6 sicuramente, perché è un passo nella direzione sulla giusta, fiducia, ma staremo a vedere. Va bene, c'è grazie. La sufficienza sulla fiducia. Dobbiamo chiudere. 800 24 00 24. Torniamo dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Uber, ci riprova, accordo con la NASA per far volare i passeggeri entro il 2020. La controversa app di trasporti privati, scrive il Sole 24 Ore questa settimana, ha annunciato l'intenzione di sperimentare il suo servizio di trasporto aereo, che si chiamerà, manco a farla apposta, Uber Air, a Los Angeles entro il 2020. L'obiettivo rientra in un progetto più ampio dedicato all'aviazione. Si immagina di intervenire in aree densamente popolate con velivoli elettrici. Non voglio immaginare il costo di questo piccolo spostamento su velivolo elettrico di Uber, però immagino già la figata. Pensa a Roma, no? Col traffico che c'è, tu che passi sopra e saluti tutti, ciao! Sopra anche alla teleferica della Raggi, sì, giusto? Che non ho capito, ma che fine ha fatto la teleferica della Raggi? In stand-by. Ah, in stand-by. Invece sono usciti i dati Euromonitor, che sono stati diffusi durante il World Travel Market a Londra, sulle città più visitate al mondo. Vince Hong Kong, che è la città appunto più visitata al mondo. Roma è 12esima, Milano è 27esima, Venezia 38esima. Sembriamo in bassa classifica, ma in realtà l'Italia rappresenta il paese europeo con il maggior numero di città in classifica. Però quindi Hong Kong in testa, non abbiamo il primo posto, ma ne abbiamo più di una, e questa è la vera cosa. Mentre quasi tutti gli altri paesi, alla fin fine in Inghilterra c'è Londra, in Francia c'è Parigi e così via, noi ne abbiamo tantissime. Meno male, meno male. Ci scrive un ascoltatore al 349-238-6666. Faccio parte di una social street e sono incaricato di abbaiare ogni volta che vedo un estraneo. Scrive questo, scusa. Non so se sta scherzando, probabilmente. Forse è un cagnolino che ci sta scrivendo. Ma siccome è lo stesso ascoltatore che scrive anche: meglio passi da Svezia, eviteremo ulteriori brutte figure in Russia, direi che sta scherzando. Ah, è vero, perché è arrivato anche questo ascoltatore qua. Questo messaggio qua, sempre di Valdimiro. Allora, a proposito di ascoltatori, andiamo cercando un personaggio della settimana che ha raggiunto un obiettivo, e poi vi chiediamo anche di raccontarci le vostre storie, se fate parte di gruppi di controllo del vicinato, appunto, o social street. O anche se siete stati beccati, secondo me. Io sto anche dall'altra parte, insomma, se siete stati beccati anche da un gruppo di controllo di vicinato, magari semplicemente stavate andando con la vostra amante a casa ed è successo un casino perché è stato pubblicato e detto a tutti. Max da Roma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Un'associazione, una Ollu, si occupa del quartiere, abbiamo varie iniziative, fra queste esiste la SOS Quartiere, è un gruppo di WhatsApp dove noi segnaliamo un triangolo di strade, che sono tre strade un po' periferiche rispetto al quartiere di Roma. Sì. E a proposito di questo, un anno fa siamo riusciti a far arrestare due ladri di appartamento, appunto perché la signora era iscritta al gruppo, ha segnalato a noi che stavano forzando la serratura. Noi come gruppo, come Ollu, siamo intervenuti noi fisicamente, bloccando sia il portone che l'accesso all'ascensore. I due malviventi sono scappati all'ultimo piano, nel frattempo sono arrivati i carabinieri e li hanno arrestati. E i ladri erano residenti in un'altra zona o erano anche loro, facevano anche loro era parte? Era l'ex marito della signora? No. I ladri erano di un campo vicino. Perché mi chiedo, in realtà forse anche i ladri si iscrivono in questi gruppi di controllo? No, sono monitorati, non è possibile. Quindi siete operativi, non è soltanto una chat, in questo caso siete proprio entrati in azione. Va bene, quindi da questo punto di vista... Ma non è un po' stressante, anche questo volevo chiedere all'assessore di Venezia, doversi occupare, uno magari vorrebbe andare a domenica al parco con i figli, invece bisogna mettersi lì a guardarsi le spalle, però magari se in un quartiere dove ci sono molte rapine, forse conviene farlo. È stressante fare parte di una controllo del vicinato, Max? Impegnativo, in quanto poi non è la prima volta, diciamo che è gratificante perché da quando io abito lì, sono 3 anni e mezzo, i furti sono scesi del 90%. Ma 90% è un ma dato. Ma anche voi avete la statistica come Venezia, che sì. Poi l'assessore ha detto che non era in grado di confermarla perché il giornalista aveva sparato la cifra. No, noi abbiamo delle statistiche che facciamo noi, perché noi presidiamo anche proprio le zone verdi, in quanto quelle sono poi focolai abbandonati di microdelinquenza. Cioè, quindi una diminuzione del 90% di cosa? Dei reati in generale, no? O dei furti? Dei reati, dei furti e delle, diciamo, atti di vandalismo sulle strade. A questo punto completiamo il quadro di quali strade stiamo parlando, così magari diamo noi modo. Noi siamo in zona 15° municipio, e si chiama Corso Francia Fleming, sotto collina Fleming. Francia. Corso certo. Francia, Corso Francia. Sì. Ma Corso Francia è abbastanza centrale, sì. No? Diciamo che noi abbiamo fatto un patto non patto con gli altri associazioni, ognuno ha sì. il suo diciamo quadratino che controlla, cioè micro macro cellula che controlla e poi si scambia le informazioni. Vi trovate al confine? Abbiamo bisogno, dovete fare un'altra statistica, perché se la statistica l'avete fatta voi internamente forse vale un po' poco, però noi siamo molto curiosi di questo dato, 90% a Roma in meno. Si basa sulle denunce che ci comunicano i residenti. Va bene, Max, grazie. Questo era il fact checking da Roma sul controllo del vicinato. Andiamo con Daniela che ci chiama invece da Firenze. Vai Daniela. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io volevo partecipare al gioco. Invece. Prego, prego, vai. Allora, secondo me è Oliviero Toscani. Il nostro personaggio. E come mai Oliviero Toscani? Cosa ha combinato? Ma perché ho sentito che in settimana ha fatto un po' di putiferio dovuto al fatto che ha proposto un marchio per il nuovo partito di Bersagnani, però... Un logo. Il partito di Bersagnani che non ha ancora elettori, ma avrebbe già il logo? Sì, già il logo. E soprattutto, sì. Che cosa c'è scritto sul logo? Esatto. Che è il nomignolo, il soprannome di... invece di qualcun altro. Esatto, è stato molto criticato perché in realtà Max, che in realtà come acronimo però è anche il nome di D'Alema, quindi sembrava l'ombra lunga di D'Alema, quindi no, non è stato molto apprezzato. Io non ho seguito, come si chiama il logo? Max, M-A-X, e quindi diciamo ricorda abbastanza D'Alema che si chiama. E sarebbe l'acronimo di che cosa Max invece? Non si sa, così, va bene. Daniela, alla fine tutto questo non era lui il personaggio, però. Grazie per aver ricordato la vicenda di questa settimana del logo Max. È un altro l'obiettivo raggiunto da un altro personaggio. Vediamo Stefano da Milano, se vuole indovinare. Vai Stefano. Pronto, eccomi. Eccoti. Sì. Buongiorno. Allora, ciao. Secondo me il personaggio è Graziano Chiaro, che è un signore di 65 anni, che ha preso un dottorato in astrofisica e adesso andrà a lavorare alla NASA. Credo che ne abbia parlato Alessandro Milan questa settimana, sì, a Radio 24. È una di quelle belle storie che ogni tanto ci riconciliano con noi stessi. Questo signore ha sicuramente raggiunto un bel obiettivo, no? Assolutamente, l'avremmo scelto volentieri, ma non l'abbiamo scelto questo giro. Ci sembrava facile, forse proprio perché ne avevamo parlato noi stessi alla radio, ma questo non vuol dire che il personaggio che abbiamo scelto invece non sia una notizia di cui si è parlato, quindi non voglio dare ulteriori indizi. Però non era Graziano Chiaro. Grazie Stefano. Andiamo in sul traffico, diamolo un altro indizio, a questo punto aiutiamo gli ascoltatori. Molto volentieri. Vai. Nuovo indizio, oltre ad aver raggiunto un obiettivo, il personaggio che cerchiamo è una squadra. Si tratta in realtà di una squadra e quindi pensate ascoltatori, 800 24 00 24 siamo qua. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, questa è una notizia della settimana di cui probabilmente vi sarete accorti. Questa volta Si può fare incontra il mainstream, possiamo dirlo, sì. In qualche modo. Al centro agroalimentare di Bologna è maturato... un fico? Un fico, un grandissimo fico. È con noi il professor Andrea Segre. Buongiorno, professore. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno. E allora, parliamo della possiamo, fabbrica italiana contadina, ma anche città del cibo, parco agroalimentare, come Italy World, come professore, come preferisci che venga definito? Ma, senti, quando partimmo con questa idea un po' strana nel 2012 per dare valore a un bene pubblico, il centro agroalimentare, esagerato diciamo nelle dimensioni rispetto certo. alle esigenze degli operatori, avevamo pensato con il direttore del CAB Alessandro Bonfiglioli, perché non facciamo una cittadella del cibo e della sostenibilità dove facciamo vedere soprattutto ai bambini e ai ragazzi come si sviluppano le filiere agroalimentari, uno spazio ideale, 8 ettari, 80.000 metri quadrati con dei soffitti in legni bellissimi e con un'area esterna si poteva togliere del cemento e mettere del buon suolo agricolo. Ecco. E così avete fatto, avete presentato il progetto al sindaco Merola. Esatto, prima al sindaco, perché questa è una società partecipata. Che ti pare dell'idea? Ci ha guardato un po' così con aria, ma basta che non ci siano risorse pubbliche, provateci e dovete soprattutto trovare qualcuno capace di gestirla, di farla funzionare, di mettere una capacità imprenditoriale. Siamo andati subito, così senza pensarci troppo, era proprio nel novembre del 2012, da Oscar Farinetti, il quale ci ha guardato con un'aria un po', però insomma si capiva che era interessato. Dopo qualche mese ha detto la facciamo, ma non si chiamerà cittadella del cibo, perché nessuno ci va, nessuno ci andrebbe. Fuori dalla fantasia di un professore universitario, ma un uomo di marchio ha detto si chiamerà Fabbrica Italiana Contadina, fico. Io l'ho guardato stranito, proprio come fico, fabbrica. Cioè vi siete guardati contadina. Straniti tutti e due praticamente, lui perché ha detto che qualcuno ha avuto un'idea più brillante di me e tu perché hai detto ma guarda che bel nome. Sì, all'inizio non ho proprio pensato così, perché uno che ha fatto il preside della facoltà di agraria parla di imprese agricole, non di contadini ma di agricoltori, imprenditori certo. agricoli, ho questo mondo in me. Però devo dire che ha preso molto questo acronimo e poi gli ho detto ma scusa, quando andremo a presentarla nel mondo, perché questo deve essere un progetto mondiale, come la raccontiamo? Please come in Italy and visit FICO. E lui mi ha detto no, si chiamerà Italy World. E infatti da lì è partita questa avventura che ci ha permesso intanto di cambiare il business model del centro agroalimentare, che pure rimane perché abbiamo spostato gli operatori in una piattaforma vicina. Ecco, spieghiamo anche che cos'è il centro agroalimentare di Bologna, che era già comunque e rimane un'eccellenza, non a caso FICO nasce proprio all'interno del centro agroalimentare di Bologna. Esattamente, sono il mercato ortofrutticolo. Il mercato ortofrutticolo. C'era la destinazione di altre piattaforme, quella dei pesci, per i pesci, il mercato dei pesci, quella del ortoflorovivaismo. Purtroppo queste strutture, diremo così, pubbliche, che svolgono una funzione sì. pubblica, sono nate, come posso dire, un po' morte, nel senso che nel frattempo la grande distribuzione ha fatto le sue piattaforme e di fatto servono poi i dettaglianti, ma rappresentano ancora una parte importante delle nostre economie agroalimentari. E quindi noi dovevamo trovare un modo perché questo asset della città, peraltro aveva ereditato un importante debito, rimanesse a disposizione della città stessa, della nostra comunità, però sfruttando una piattaforma vicina un po' più piccola che abbiamo rigenerato facendo un mercato ortofrutticolo, dico 2.0 perché siamo gli unici, per questo va molto bene, ad aver progettato come si deve un mercato con, per dire, tutto un corpo unico, con l'impianto fotovoltaico che peraltro è il più grande d'Europa e con una logistica totalmente rinnovata. E accanto questa meravigliosa piattaforma inadatta, troppo grande, l'abbiamo certo. svuotata, quindi senza costruire nulla, anzi non solo consumo zero di suolo, abbiamo apportato del suolo e quell'idea iniziale, diremmo così, delle filiere è totalmente rimasta. Certo, poi con la creatività di Farinetti e di tutto il gruppo che ci ha lavorato, adesso davvero posso dire che è una cosa pazzesca. Spero fico è molto fico, possiamo dire che è molto fico. E credo che anche il nome all'estero potrà avere delle chance, se pensiamo che tanti prodotti italiani all'estero sono conosciuti proprio con il nome italiano, chissà che anche questo nomignolo, nato un po' così, non possa avere successo. Cosa possiamo dire di fico che non sia stato ancora detto, professor Segre? Primo, venite a vederlo perché veramente vale la pena, diciamo, la molto volentieri. È il viaggio dal 15 si inaugura e sarà aperto al pubblico. E poi secondo me una cosa che che vorrei dire è questo mix che c'è fra Sico Italy World, la parte delle fabbriche, ormai le chiamo anch'io così, in realtà sono dei laboratori di trasformazione, i campi, gli allevamenti, e poi la parte dentro, fra virgolette, più commerciale, nel senso i negozi, i punti ristoro, ed è poi su questo anche che si regge, diciamo, la parte economica. Ma accanto a questo abbiamo costituito, di fatto con gli stessi investitori, soprattutto le casse previdenziali che hanno messo molte risorse, quelle interessate proprio tanto ad avere un ritorno economico, ma anche a portare un tema legato al cibo direttamente o indirettamente, o una professione come i medici, i veterinari, gli agronomi, i periti industriali hanno anche investito, gli avvocati, insomma sono tutti interessati al mondo del cibo anche dal punto di vista culturale. Abbiamo costituito una fondazione che si chiama Fondazione FICO per l'educazione alimentare, con 4 università, fra cui quella di Bologna, che è adiacente peraltro proprio a questo complesso, per proporre anche una filiera della formazione, non solo agroalimentare. Porteremo i bambini delle elementari fino agli studenti universitari. Io dico agli ascoltatori magari dubbiosi, scettici, che dicono beh, ma insomma, ma perché dovremmo interessarci tanto a FICO o a tutto quello che ci gira intorno? Ricordiamoci che l'agricoltura è un settore che tira e continua a darci dei dati positivi, uno dei pochi forse in questi anni di crisi ha retto. C'è tutto il tema della lotta allo spreco, che vi vede sempre, lo spreco alimentare sempre in prima linea, tutto il tema della formazione dei bambini che non sanno più assolutamente niente di quello che accade in campagna, quindi tutto buono. Però professor Segre, come si concilia tutto questo con le difficoltà che però ci sono a portare avanti, lo sentiamo spesso anche dagli ascoltatori che ci chiamano e che sono magari impegnati proprio nell'agricoltura loro stessi, la domenica spesso ci chiamano dai campi in diretta, la scarsa remunerazione, no? I coltivatori che rinunciano al raccolto di ciliegie piuttosto che arance, i prodotti peggiori che costano meno, la che però vengono venduti di più. Esatto. Come si concilia tutto? No, questo è il tema, diciamo, di fondo. Noi dobbiamo ridare valore al cibo. In fondo il progetto davvero nasce come un'iniziativa di educazione alimentare, e io parto, come sapete, dal rovescio della medaglia, che è lo spreco. Perché getti via il cibo quando è ancora buono e potrebbe essere consumato? Perché non gli dai più valore, perché siamo in crisi e vogliamo pagare pochissimo, anche perché non possiamo permettercelo, il costo della caloria, e cerchiamo e abbiamo poi anche delle conseguenze sulla nostra salute. Allora al centro, ecco, di questa iniziativa c'è diciamo il tentativo, vediamo se poi vinceremo questa sfida, perché è una sfida di dare più valore al cibo e di riconoscerne soprattutto l'origine. E chi è a monte di tutta questa filiera? L'agricoltore. Proprio quei signori lì che si sporcano le mani. Chiamiamolo anche il contadino, come piacerebbe a Farinetti, ma che comunque è un'impresa, e se non è il primo a essere remunerato, e se questo valore aggiunto scendendo lungo la filiera si moltiplica senza però aggiungere, diremo così, qualcosa, cioè la parte di trasformazione, quella di distribuzione, infine quella del consumo finale domestico ed extradomestico, ecco, dovremmo insomma riequilibrare questa filiera, altrimenti è molto difficile andare avanti. E da dove deve partire? Anche da noi consumatori. Dobbiamo essere disposti a investire un po' di più sul cibo, un po' di più in termini di conoscenza. Magari non buttarlo via e comprarne un po' meno, ma utilizzarlo tutto se è di qualità. Potrebbe essere questa una strategia. Avete anche degli obiettivi turistici, ma si paga il biglietto, tra l'altro? Fico? No. Penso che sia l'unico parco al mondo, adesso mettiamolo, come dire, fra virgolette, ma che dove non si paga il biglietto, dove si pagano alcuni servizi, si paga per esempio la visita di questi sei grandi laboratori multimediali, detti anche giostra, che ricordano il percorso dell'agricoltura attraverso le sue fasi principali e gli elementi principali, l'acqua, la terra, il fuoco, l'agricoltura del futuro. Quindi in realtà è un parco aperto a tutti, che vuole attirare molti visitatori, non solo dall'area, diciamo, di Bologna e dell'Emilia Romagna, ma dall'Italia e poi soprattutto dall'estero. E si può girare in bici, vero, all'interno? Sì, c'è una bicicletta a tre ruote con, diremmo così, due portapacchi, uno anteriore e uno la posteriore. Spesa anche, sì. Perché certamente, esatto. E poi la cosa interessante è che sono 10 ettari, sono quindi una superficie molto grande. Gigantesca. È veramente gigantesca. E pensate che era la struttura del mercato ortofrutticolo, dove c'erano gli stand dei cosiddetti grossisti che vendevano frutta e verdura. Peraltro io, quando mi sono candidato a fare il presidente, con quest'idea, diciamo, di cittadella del cibo, era vuoto, era riempito, mettiamola così, vediamo il bicchiere mezzo pieno, al 55%, e quindi era un costo per la collettività, non era funzionale e bisognava trovare una destinazione alternativa. E questo era davvero il posto ideale. Peraltro Bologna, la Dotta, la grassa intesa in senso di accogliente, diciamo, ha sposato subito questa idea. Se non avessimo avuto la città attorno, l'amministrazione, non saremmo riusciti in tempi, pensateci, da un'idea alla realizzazione sono passati, se mettiamo proprio tutto il periodo, 5 anni, non è tantissimo. È pochissimo, per l'Italia non è tanto, esatto, se possiamo dire, veramente non sembrano dei tempi italiani, assolutamente. Professor Segre, grazie. Complimenti. Grazie a voi. Grazie, e questa è la storia dell'inaugurazione della cittadella del cibo, o Italy World, o se preferite FICO, non FICO però, FICO. Direi di sì. Assolutamente. Fico. 800 24 24 24. Sto inceppando. Posso dirlo a questo punto della trasmissione? Ho dormito 2 ore stanotte perché si è festeggiato. Io ho festeggiato un compleanno e quindi è stata un po' una tragedia. Però, fra l'altro, a Novara, quindi con ritorno notturno nella nebbia, Carlo, è stata una tragedia. Allora, stiamo ancora cercando un personaggio della settimana che ha raggiunto un obiettivo. E fin qua, e però anche è una squadra, quindi tra poco con gli ascoltatori. Si può fare cronache da un paese migliore. Got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Go pop it for a plan. Pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent some beach house in Miami. Wake up with no jammies. Allora andiamo con Claudio, che ci chiama dalla provincia di Lecco. Claudio, buongiorno. Buongiorno, si può fare. Buongiorno, proviamoci. Siamo per una testimonianza sul controllo del vicinato, che sì, è una cosa seria, nel senso che noi l'abbiamo messo in piedi nel nostro paesino, aderendo a quelle che sono le regole del controllo del vicinato nazionale. Io, quindi siete in rete, siete in rete. Come si chiama il paese? Osnago. Bene. Però abbiamo, come dicevo, abbiamo aderito alle regole del controllo del vicinato nazionale. Io consiglio a tutti di googolare controllo del vicinato e troverete un sito che a livello nazionale elenca centinaia di comitati come il nostro e che stanno aderendo, sì, e che spiega esattamente cosa fare e soprattutto cosa non fare, nel senso non agire personalmente, non esporsi, perché questo potrebbe provocare danni per se stessi e per gli altri. Avere un ottimo, noi abbiamo eccellente rapporto con le forze dell'ordine, e questo in maniera strutturata permette poi di raggiungere dei, cioè, buoni risultati. Cioè non siete militarizzati, ecco, questo bisogna dirlo. No, sono cittadini normali che segnalano, semmai cose, si tengono in contatto tra di loro. E a vari livelli raggiungiamo poi le forze dell'ordine in modo da scremare segnalazioni che possono essere banali da quelle che possono essere importanti. Certo, ma che cosa risponde a quelli che dicono: ma io, insomma, già pago le tasse, ci sono le forze dell'ordine, la mia sicurezza dovrebbe essere gestita dalle forze dell'ordine, perché devo occuparmi anche io stesso della mia sicurezza personale? Ma molto pragmaticamente, perché le forze dell'ordine non hanno un occhio in ogni vicolo, in ogni strada, in ogni paese, in ogni appartamento. E voi invece ce l'avete. Ma anche però voi forse avete... noi non lo vogliamo un occhio in ogni vicolo. Ma di fatto noi siamo un paese di 4.000 persone, abbiamo 250 circa aderenti ed è chiaro che, insomma, la percentuale è elevatissima. Eh sì, sono 500 occhi. Carlo vuol dire, no, ma se io me ne vado nel vicolo la mia amante e non dovrei essere intercettato da nessuno, finisco nella chat del gruppo di vicinato? se qualcuno segnala questa, se qualcuno segnala questa evenienza, il responsabile di zona la filtra e non la passa. Ecco, filtriamo. Mi raccomando, notizia del tipo, mi sa che Gabardini sta tradendo, quella non passa. No, non deve passare, se no non è più una cosa seria, diventa un gioco e diventa molto poi bene. Claudio, l'ultima curiosità, avete anche voi l'assessore in chat o no? No, voi no. Ma alcuni di noi sono consiglieri, però è importante che non sia politicizzata. Può la cosa capitare, ma non è necessario. Grazie Claudio, questo era il fact checking da Osnago. Andiamo con Riccardo dalla provincia di Pavia. Tra l'altro ha aggiunto anche una cosa giusta, non deve essere una questione politicizzata. Bravo Claudio. Riccardo. Pronto? Pronto. Pronto. Eccomi qua. Ecco. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Volevo partecipare al gioco dell'indovinello. E noi siamo tutto orecchi. Vai, chi è? Tutti orecchi, bene. Allora, secondo me la squadra italiana di rugby, perché ha vinto con le Figi, e quindi la vittoria è abbastanza storica. Perché è un avversario difficile, le isole Figi? È un avversario difficilissimo e non so se è la prima volta. Per l'Italia possiamo dire anche che sono quasi tutti molti avversari difficili per quanto riguarda il rugby. Questo va pur detto, però abbiamo vinto questo bel test. Ebbene Riccardo, in effetti è una squadra, come no? E ci dobbiamo consolare col pallone ovale. Bravo. Giusto, giustissimo. Aspettiamo domani sera. Però non era la squadra che abbiamo scelto. Ah, peccato. Però grazie ad aver ricordato questa impresa del rugby italiano. Assolutamente. Proviamo con Gemma che ci chiama dalla provincia di Salerno. Vai Gemma. Io penso che possa essere la squadra dei Medici che al Bambino Gesù hanno separato le gemelline siamesi. Certo, che insieme alle gemelline siamesi e alla famiglia facevano sicuramente una bellissima squadra. Frangente... hanno lavorato in equipe tantissime. È una notizia straordinaria questa, se vogliamo un po' era un trappolone perché speravamo che qualcuno ricordasse questa vicenda e soprattutto sottolineando il fatto che è stato un lavoro di squadra, come gli stessi medici hanno detto, tutta l'equipe, per cui hanno separato queste due gemelline che stanno bene. Non era però la squadra che abbiamo scelto, ma però la ringraziamo moltissimo di aver ricordato questa storia. Grazie Gemma, possiamo anche dire che in qualche modo rispetto alla squadra di rugby, questo tipo di squadra, siamo già un po' avvicinati alla notizia, al personaggio vero, ma non tantissimo, ci siamo un po' avvicinati. Alessio è in buona oggi, vi sta cercando di aiutare, però è vero, accogliete il suo indizio. Tra poco un altro indizio, adesso andiamo a Brescia. Allora, siamo generosi e andiamo di indizio. La squadra che ha raggiunto un obiettivo è una squadra di sole donne. Quindi sono quattro donne. Ho detto quattro. Hai detto quattro, ma va benissimo. Vabbè, dai, non dovevo dirlo. Fate conto che non l'abbia detto. Va benissimo. 800 24 00 24. Adesso, come detto, celebriamo una buona notizia che riguarda gli abitanti di Brescia, la città con il miglior servizio di bike sharing, di biciclette condivise, se vogliamo così chiamarle. È con noi Marco Medeghini, direttore generale del gruppo Brescia Mobilità. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori. Questo riconoscimento vi è stato, come dire, appunto riconosciuto recentemente a Ecomondo, la fiera delle tecnologie sostenibili di Rimini, e complimenti, anche se non è poi questa la notizia che vogliamo approfondire. Però intanto cosa avete fatto per meritarvi questo titolo? Sì, è stato un premio che ci ha fatto molto piacere. Diciamo che noi abbiamo presentato un progetto di sistema, ovvero il bike sharing a Brescia, che va molto bene, ci sono oltre 21.000 abbonati, ovviamente considerando la dimensione cittadina. E quanti abitanti ha Brescia? Circa 200.000. Perfetto. Quindi un 10% di bresciani sono abbonati. Potrebbero essere anche non residenti magari, che vengono da fuori. Certamente sì. Comunque una bella fetta. Un bel risultato, sì, per noi è importante perché avendo oltretutto una metropolitana leggera, la bicicletta consente di allargare il raggio di influenza delle stazioni, quindi sì, mentre a piedi si possono fare qualche centinaio di metri, evidentemente con la bicicletta condivisa si può arrivare a un chilometro e mezzo, quindi dà un maggior servizio del nostro servizio. E c'è una metropolitana, quindi... senza, l'ho presa più di una volta e quindi ero molto contento, senza autisti, giusto? Senza conducente. Senza conducente, chiedo scusa, automatica. Ho sbagliato. Sì. Giusto, sì. Giusto. Insomma, siete in prima linea nelle tecnologie per quanto riguarda la mobilità sostenibile. E l'ultima notizia che arriva da Brescia, città che quindi teniamo particolarmente sotto osservazione, è sì, questa. Contro i portoghesi, hanno scritto i giornali, arrivano i controllori privati. Parliamo degli autobus e anche, credo, immagino di questa metropolitana leggera, un po' di tutti i mezzi pubblici, no? In cui state cercando di sconfiggere la famosa evasione, il famoso viaggio sì, ma non pago, no? Mm. Sì, assolutamente sì. Con questa diciamo iniziativa. Questa iniziativa significa usare un concetto di equità, cioè per noi il livello di evasione non è esorbitante, ma a che percentuali? Siete? Posso dire noi che è bassissimo, siete al 4%, ho visto. Sì, esattamente. Ma che quello che dicevo, esatto, per quello che dicevo che è una questione di equità, cioè noi riteniamo di dover dare una risposta ai nostri concittadini che salgono sul mezzo e devono essere certi che tutti paghino il biglietto, quindi chi è virtuoso deve avere la certezza di essere... È molto giusto questo ragionamento che sta facendo, perché spesso, cioè, non è la questione di un singolo biglietto, di perdere un euro, ma è la questione di una comunità che decide che si dividono le spese, e quindi è in qualche modo come se uno ha al pranzo di Natale poi c'è una famiglia che non ha messo la sua quota e non si capisce perché mai. Questa cosa qua è infastidente al di là del dato economico. Però dove volete arrivare? Che avete un 4% che è bassissimo, volete arrivare proprio allo 0%? Ma l'obiettivo dovrebbe essere questo, certo, sì, giusto. Ovviamente, come si sa, significa anche investire risorse, quindi dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra le risorse. Bravo. Investite. Però la notizia che interessa è anche questa, no? Controllori privati. Che cosa vuol dire controllori privati? Ci troveremo di fronte, si troveranno i bresciani di fronte a guardie, che so, armate? No, assolutamente no. Si tratta di una società privata che ha molta esperienza in materia, perché per noi è anche importante che ci sia preparazione, cioè il rapporto con l'utenza non deve essere conflittuale, quindi ci vogliono persone come i nostri controllori, ma anche altri preparati, e non deve essere ogni volta una schermaglia, ma deve esserci preparazione. Cos'è Equitalia, l'azienda specializzata? Equità? No, non è Equitalia. No, assolutamente. Ma come mai non assumere dei controllori, ma invece fare un accordo con una società privata? Perché noi dobbiamo trovare il giusto equilibrio fra le nostre forze e le forze che dobbiamo mettere in campo, anche perché appunto, come dicevo, dobbiamo trovare il giusto equilibrio, e quindi è una sorta di sperimentazione per trovare il giusto numero di persone che servono per arrivare a un anche perché non ci saranno dei fondi incredibili, nel senso che il massimo che si può recuperare è il 4%. Assolutamente sì. Brescia, noi ringraziamo Marco Medeghini, direttore generale del gruppo Brescia Mobilità, grazie per essere stato grazie con mille. Noi, staremo a grazie. Vedere anche se... La richiamiamo intorno sì. al 3. Va bene. Al 3% intendevo, ovviamente. Pensavo intorno al 3 dicembre, così presto. Buona giornata. Buona giornata. Allora, siamo giunti al momento della linea al traffico, però forse possiamo sentire Paolo, che ci chiama dalla provincia di Ravenna. Vai Paolo. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Mi era venuto l'idea che potesse essere la squadra di medici che hanno salvato il bambino di dermatite bollosa, non so se dico bene la malattia che aveva il bambino, e hanno fatto il trapianto e il bambino è tornato poi a giocare e è ritornato un bambino normale. C'è questa squadra di medici di Modena e Reggio Emilia, degli ospedali, che hanno fatto questo trapianto innovativo. Guarda, io sto dal nostro silenzio puoi intuire che eravamo un po' impreparati, però che siamo molto interessati affinché si racconti questa storia. Sono andato in effetti a googolare. Ma c'è questa malattia gravissima che colpisce l'epidermolisi bambini. Bollosa. Esatto, epidermolisi. Ora non so bene il termine perché non sono un medico. E muoiono perché diventa la perdono completamente la pelle. E questo bambino che vive in Germania, ma credo che sia di origine siriano, siriano. Esatto, bravissimo. E gli hanno fatto questo trapianto e il bambino è tornato a giocare a calcio, una vita completamente normale. La grande medicina italiana, la grande medicina italiana. Esatto. È vero, questo bisogna sempre dirlo ed essere orgogliosi. Quindi è molto bello che tu abbia ricordato anche questa notizia, in effetti, Paolo. È una bella storia però, che appunto, forse c'era sfuggita. Apprezziamo anche il fatto che l'hai raccontata con questa precisione, nonostante sapessi che non avevi vinto il premio. Quindi sei arruolato. Se nessuno indovina, forse ti mandiamo anche i biglietti. Te lo possiamo dare ad onore, ma è un'altra la squadra di donne a questo punto che ha raggiunto uno suo obiettivo questa settimana. 800 24 00 24. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita, vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Penso che sia una follia andare all'IKEA. C'è sempre una gran confusione, anche di sabato sera. Poi lo sai, mi fa tristezza vedere la gente che sogna di comprare tutto e si accontenta di niente. Ah, mi fa impazzire questo pezzo qua di Brunori, questo passaggio qua. Jennifer Wegerup, ben ritrovata, buongiorno. Buongiorno, grazie. Buongiorno, giornalista dalla svedese, dalla Svezia, momentaneamente in Italia perché poi lo spiegheremo perché, anche se si può intuire, perché lei collabora con la Gazzetta dello Sport. La conoscevi questa canzone che parla della vostra IKEA? No, non la conoscevo. Vedi, ti abbiamo fatto conoscere qualcosa in più. E in effetti Brunori parla proprio di questo: gente che va all'IKEA sognando di comprare tutto, ma si accontenta di niente, no? E in effetti a questo però l'IKEA sta ponendo rimedio. All'IKEA ci sono anche prezzi bassi, però, non mi sembra l'emblema del posto dove uno va, no, e non può permettersi niente. Però l'IKEA farà anche un passo in più verso chi non può permettersi nemmeno i mobili d'IKEA, cioè i mobili usati. E ci ha colpito questa notizia, Jennifer, ce la racconti? Sì, hanno avuto questa idea che adesso si potrà comprare appunto anche i mobili già usati per chi ha meno soldi, vuole spendere ancora meno. E soprattutto può vendere i propri, sì, giusto? Sì. Esatto, anche. Sì, esatto, bravo. Insomma, è una bella idea, in fondo, penso. È tipico anche per l'IKEA. Secondo me è anche una bella cosa che non si accontenta, non di essere così grandi, ma cerca sempre di rinnovarsi. Di fare qualcosa in più. Chiave forse del successo proprio dell'IKEA. È sulla vendita online che li vedo un po' impreparati. Almeno a Milano è veramente molto complesso e le spedizioni costano tantissimo. In un momento in cui c'è Amazon e tanti altri che ti spediscono tutto, mi chiedevo come mai IKEA fosse così debole sull'online. Puoi metterci una buona parola, Jennifer? Perché non lo so, perché a Milano ovviamente non ho provato, però devo dire che in Svezia funziona benissimo. Io compro sempre tutto online perché non sopporto andarci, appunto, col casino della canzone, funziona benissimo. Ah, quindi anche gli svedesi non vanno all'IKEA in realtà, ma fanno tutto online. Sì, tanti, io no, ma comunque fare shopping online è una cosa sempre più grande. Almeno da noi dovrebbe che funziona bene. Perfetto. Ma come sono in specchio, glielo dico. Sono però curioso di sapere quanto potrà costare usata, che so, la libreria Billy, che io ho comprato in grandi quantità. E chi non ce l'ha? Che costa? Chi non ce l'ha? Già costa 30 euro di suo, usata costerà, non so, 5 euro. Vabbè, è una sfida. È una sfida questa. No, ma soprattutto la cosa che mi chiedo è: questi mobili usati verranno rigenerati in qualche modo o vengono venduti quanto sono usati? Cioè, chi si becca la libreria di Alessio magari se la becca tutta rotta, sbertucciata. Tutta rotta non credo, non vendono le cose rotte, però credo sia un divano, non è che il sistema lo puliscono loro, penso. Sì. Lo fa chi lo compra, come normalmente anche quando vai in altri negozi e compri dei mobili usati, no? Penso così. Cioè, dai, qualche ammaccatura ci può essere, certo, non sarà completamente sbertucciata. Ma che tu abbia capito, Jennifer, questa cosa vale solo in Svezia o in tutti gli stabilimenti che è, nei negozi che è, piano piano ovunque nel mondo, e quindi anche in Italia arriverà questa cosa dei mobili usati? Sì, sì, penso pian piano ovunque. Pian piano ovunque. Sono delle cose che iniziano in Svezia e poi insomma, dappertutto, in tutto il mondo. Questo è tipico per il Ivan Chantrad. Ormai anziano, ma è il fondatore, sì, dell'Ikea. Lui è uno che ha tantissime idee e vuole la gente intorno a sé che lavora così. Certo. Senti Jennifer, a questo punto però dobbiamo chiedertelo, lunedì, domani sera c'è lo spareggio degli spareggi, qual è l'umore? Dacci dei consigli anche per battere la Svezia. Ma non si so può. Se lei ci vuol dare dei consigli del genere, non credo che tifi per l'Italia, Jennifer Wegerup. Com'è l'umore? No, io voglio tanto bene agli italiani e amo l'Italia, ma è ovvio che è tipo la Svezia, certo, che è il mio paese. Il cuore. No, c'è tanta fiducia come c'era già prima della prima partita. Io l'ho scritto nella piazzetta tutta la settimana scorsa, l'ho anche detto in TV così, perché questa è una Svezia rinata forte, basata sulla vecchia tradizione della squadra, e abbiamo battuto la Francia in casa, eliminato l'Olanda, vinto un amichevole con il Portogallo. Chi ci è sottovalutato ha visto non è un esploit questo, vuoi dire, cioè si tratta proprio di una Svezia che è tornata competitiva, e quindi tu dici non è un esploit, la vedremo domani, la vedremo domani. Beh, comunque a questo punto non resta che aspettare. Noi speravamo, visto che c'è un'altra notizia che riguarda la Svezia, che siete la nazione più generosa al mondo secondo una classifica dell'ONU, noi speravamo che questa generosità si spingesse fino a lasciarci il posto per i mondiali, però non so. Jennifer, grazie. Noi vogliamo tanti mondiali. Grazie. Lo so, giusto. Lo vogliamo tutti. Chissà chi ce la farà. Grazie. Chiudiamo con Adriana da Bologna. Vai, Adriana, personaggio della settimana. Abbiamo 30 Pronto. Secondi. Vai. Pronto, ci sono? Sì, ci sei. Intanto, buongiorno Alessio, buongiorno Carlo, buongiorno. Buon compleanno. Grazie. Allora, io sono di Bologna, ho conosciuto personalmente il professor Segre ed ero già in linea come tutti sabato e domenica perché vi ascolto da anni. Sì. E dunque, Adriana, mentre stringiamo. Aspettavo il dottor, sì, il servizio su Segre, ho sentito, parlavo con mio marito, ho detto, ma sai che una mamma con le sue tre figlie si sono laureate a Urbino? E ho detto, l'avevo letto ieri o l'altro ieri, la signora Bardelli. È lei, la notizia è questa. La notizia è questa. Mamma con tre figlie, si laureano tutte insieme. Ma non solo, questi sono proprio una dobbiamo chiudere, Adriana, dobbiamo chiudere. Ci dispiace, avevi voglia di parlare, ma noi non possiamo. Grazie mille, ti porti a casa i biglietti. Ci sentiamo sabato prossimo. Un ringraziamento ad Andrea Piana.